Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti, questo già lo sapete, è un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese. Con qualche difficoltà tecnica, lo sapete, ma noi qui esistiamo e resistiamo da molti anni. Zibaldone è nato nel 1997, quindi insomma ormai siamo in procinto dei 25 anni, del mezzo secolo di Zibaldone, insomma. Ma che non sono bazzeccole, come avrebbe detto qualcuno. E vi ricordo poi che ci potete ascoltare dalla web di Contrabanda, www.contrabanda.org, che poi potete scaricare in podcast tutte le nostre puntate dal blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi 13 maggio, puntata ricca, mi ci ficco, puntata dove ci sono parecchi ospiti, parleremo di cose molto interessanti come Primo Levi e Amilcare Rambaldi, proprio a loro è dedicata la nostra puntata, ma come sempre ci accompagna anche tanta musica. Alcune sono anche news che ci arrivano fresche fresche dall'Italia, come questo nuovo singolo di Andrea Tarquini, UFO Robot, che lancia il suo nuovo disco. Nasconde un mistero e ti chiedi cosa fosse, cosa in fondo sia vero. E mamma che parlava di altre rivoluzioni, e io coi primi accordi e con le nuove canzoni. E parlare senza fine come a primavera, inciampare nelle spine quando viene la sera. Qualcosa di diverso che ci pensi e ci ripensi e che va. C'era UFO Robot, che ci batte passa coi pensieri, le canzoni sempre tante con accordi veri, e noi che siamo grandi e belli come ieri. E il pessimismo comico non porta fortuna, ma fa ridere una faccia tonda come la luna. E ci vuole una canzone perché venga un affresco, qui nessuno c'ha memoria, io stasera non esco. E mi metto sull'attenti quando canta Francesco, e sto attento alle parole se s'affaccia Francesco. E mi batte forte il cuore quando segna Francesco, e proteggo la memoria, sono novecentesco. C'era UFO Robot, nostalgia. questo brano è Uforobò di Andrea Tarquini, con cui abbiamo aperto la puntata dello Zibaldone di quest'oggi, un nuovo singolo uscito fresco fresco e che lancia il nuovo album di Andrea Tarquini, che è stato in passato nostro ospite anche qui a Barcellona. In fondo al Novecento, il suo terzo album che diciamo si sta lanciando in queste settimane. Già un paio di settimane fa, tre settimane fa credo, vi avevamo proposto il primo singolo, l'album omonimo, come quello dell'album. Invece Uforobò è il pezzone pop, come me l'ha raccontato proprio Andrea Tarquini quando me l'ha mandato, un brano nostalgico spensierato lo definisce lui. La Reno 4, dove ritrovarono Aldo Moro insieme a Goldrake, questi sono i miei anni dell'infanzia. Uforobò, un po' come In fondo al Novecento, è un piccolo manifesto ideale di questo disco, un racconto che parte dal passato e arriva all'oggi, ossia ad un paese che istituisce giornate della memoria a pacchi, ma lo fa spesso per autoassolversi dalla colpa di non custodire la memoria quotidianamente. Insomma, una canzone sicuramente allegra, sicuramente spensierata, però che ci fa anche riflettere un po' sulla storia del nostro paese. E con queste parole do anche il benvenuto al nostro caro Banzo, ossia Enrico Banzola, più ergonomico che mai. Bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Quindi mi dai il benvenuto mentre rifletti sulla storia del nostro paese. Infatti mi sembravi un po' distratto al momento dei saluti, perché è una riflessione gravosa. Ecco, quindi abbiamo ascoltato questa Uforobò di Andrea Tarquini. Io avevo sempre pensato che Uforobò fosse di Gonagai, vabbè, con un nome diverso, passatemi questa battutaccia. E comunque la nostalgia è una moneta che spendiamo anche forse troppo volentieri in questo periodo storico, però vabbè, comunque davanti a questi riferimenti, ecco, apro il portafogli. A proposito di nostalgia, Steven, tu sai che io sono anche qui un po' per mettere i puntini su tutte le lettere possibili, anche creando delle dieresi. Degli umlaut, esatto. E ecco, prima mi sembra di averti sentito dire che Zibaldone è attivo dal 1997, quindi certo, mezzo secolo. Ecco, diciamo un quarto di secolo. Esatto, c'è stato un po' uno slancio di entusiasmo e siamo qui, ecco, a guardare il futuro, fare ammenda e procedere di slancio col programma. No, fare ammenda e guardare al futuro, ecco, quindi tra 25 anni avrò detto giusto, insomma, dai, dobbiamo aspettare ancora un po'. Comunque sì, un quarto di secolo di Zibaldone. Comunque, bando alle ciance, puntata ricca, mi ci ficco, dicevo, perché sì, parleremo di due grandi personaggi quest'oggi, che sono Primo Levi, che non ha bisogno di presentazioni, lo faremo insieme a Sira Hernandez, musicista, pianista spettacolare, perché proprio il fine settimana scorso qui a Barcellona è andato in scena uno spettacolo che omaggia, che è dedicato a Primo Levi, e con lei ne parleremo. E poi invece parleremo di Amilcare Rambaldi, il fondatore del Club Tenco di Sanremo, tra l'altro partigiano socialista durante la guerra civile in Italia, antifascista convinto, e poi appunto quasi 30 anni dopo, all'inizio degli anni 70, fondatore del Club Tenco, quindi insomma un po' la mecca della canzone d'autore italiana. Lo faremo insieme a Sergio Secondiano Sacchi, che è il direttore artistico del Club Tenco di Sanremo, in occasione, ne parliamo in occasione di un concerto, di uno spettacolo che si terrà a Barcellona il prossimo 28 maggio, che si chiama proprio Casa Rambaldi, ma insomma ne parleremo nella seconda parte del programma insieme a Sergio Sacchi, che insomma torna a trovarci ed è un gradito ritorno. Banzo, poi ci saranno tante altre cose, ma insomma le lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori poco a poco. Per lanciare l'intervista a Sira Hernandez, che già si sta aspettando in linea, andiamo ad ascoltarci una canzone che si intitola Se questo è un uomo, e che ovviamente, come tu ben sai, è proprio insomma una canzone basata su un testo fantastico di Primo Levi, che è di una band che si chiama Caradel. Ecco, che dire di Se questo è un uomo, senza essere banali? Tu che diresti, Banzo? Dell'opera di Primo Levi? Certo. Steven, insomma, è un compito difficile, ecco. Per questo ti faccio questa domanda, dai, insomma, tu sei sempre pronto. Io direi che senza timore di esagerazione, per me è una delle opere più importanti della letteratura di tutti i tempi, ecco. Perché insomma non c'è troppo bisogno di spiegare il perché, per la profondità e l'umanità con la quale riesce a descrivere l'orrore e anche l'importanza che ha avuto nel mettere a parte tutti in un periodo storico nel quale ancora non si è riusciti a mettere a fuoco forse l'enormità, l'abnormità, scusa, della situazione. E poi, al netto, diciamo, del valore documentale che è fondamentale, ma non è tutto, Primo Levi era uno scrittore dallo stile squisito, era veramente una persona che, diciamo che peraltro non è mai stato esattamente uno scrittore professionista, però a livello stilistico uno dei migliori scrittori italiani, anche qui, di sempre. Mi dà fastidio usare le iperboli, però di fronte a Primo Levi è anche difficile usare dei giudizi così, diciamo, un po' mitiganti, perché ci si trova di fronte davvero a un gigante della storia della letteratura. Eh sì, parole sagge, sono assolutamente d'accordo con te. Andiamo ad ascoltarci questa canzone di Cara Del e soprattutto la voce di Primo Levi. Che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo, i visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza cappellino e nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando a casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si spaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Sorprese partigiani, senza soldi e senza armi, l'inesperienza tra le mani. Un esercito di ariani, con la loro divisa scura e un fucile tra le mani. Non sapeva la paura, rinchiusi in un vagone, in un viaggio giù nel fondo. Sposammo la paura, scordammo il ritorno. Quanti anni sarò malato? La risposta ci salvava, la risposta ci condannava. Senza abiti, senza scarpe, ci hanno tolto i capelli, ci hanno tolto i nostri nomi, ci hanno dato calci e sputi. Ho imparato ad obbedire, a non cercare di fuggire. Per uscire c'è solo il vento che ci accarezza col suo pianto. E ogni giorno ricominciare, uscire, lavorare, ammalarsi e guarire o morire. Quanti anni sarò ammalato? La risposta ci salvava, la risposta ci condannava. Con il freddo al ritmo di fanfara, ossa stanche nella nebbia, infreddolite barcollanti, mattone su mattone costruimmo la tribuna, cementata con l'odio, il dolore, la paura. Maledetto anche l'inverno che ci decima di giorno in giorno, che ci toglie i nostri amici, la speranza del ritorno. Quanti anni sano malato, la risposta ci salvava, la risposta ci condannava. Che scompariva ed un raggio di sole dava gioia alla mia vita, e lontano voci amiche parlavano di salvezza, e vicino i cannoni sparavano a vendetta. I soldati che scappavano ci uccidevano, ci ignoravano col silenzio di chi prega. Iniziò la tregua. Nelle notti felici, sogni densi e violenti, sognati con anima e corpo, tornare, mangiare, raccontare, finché suonava breve e sommesso il comando dell'alba, stavaci! E si spezzava in petto il cuore. Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, abbiamo finito di raccontare, è tempo, presto udremo ancora il comando straniero. Stracci! E questa canzone ovviamente era il testo di Primo Levi, ve l'abbiamo già presentato, e perché di Primo Levi parliamo in questa puntata di Zibaldone, lo facciamo insieme a Sira Hernandez, che ora ci accompagna e a cui do immediatamente il benvenuto. Sira, un piacere averti con noi a Zibaldone quest'oggi. Grazie Steven, grazie a te per invitarmi ad essere con voi. Un piacere. Sira è una grandissima pianista, ha tantissimi progetti all'attivo, una carriera artistica molto lunga, che è, pur essendo di Barcellona, molto un legame molto stretto fin dagli anni della formazione con l'Italia, e per questo insomma Sira parli anche questo fantastico italiano. E oggi ti abbiamo con noi perché lo scorso fine settimana hai portato in scena qui a Barcellona una tua pièce, un tuo brano intitolato Don't Forget About That, che è proprio dedicato a Primo Levi. È andato in scena gli scorsi 7 ed 8 maggio al Born Centre Cultural, all'interno di un ciclo intitolato Primo Levi, il testimonio e l'escritore e il scientifico, che il Born Centre Cultural ha dedicato appunto a Primo Levi in occasione del 35esimo anniversario della sua morte e dei 75 anni dalla pubblicazione di Se questo è un uomo, Si esto es un hombre, in castigliano, in spagnolo. Sira, uno spettacolo io credo importante, ritornare a parlare di Primo Levi in questo periodo, ma prima di tutto ti volevo domandare anche come è andata questa due giorni al Born Centre Culturale, riaccompagnata tra l'altro da bravissimi attori come Cristina Giordana, che noi qui a Zibaldone conosciamo bene, o Francesco Reia. Sì, veramente è stata un'esperienza straordinaria, devo dire, ringraziare moltissimo Marta Marindomini, la direttrice, per aver accettato questa proposta, e che venne dopo delle conversazioni che avevamo avuto parlando di questo ciclo, in cui io tra l'altro ho la fortuna di aver conosciuto Primo Levi in persona, sono molto amica del figlio di Renzo Levi, e quindi ho avuto un contatto diretto con loro, con questa famiglia che ha vissuto questa situazione così terribile, e in questo momento ci sembrava necessario proprio proporre qualcosa su di lui, giusto per ricordare questi anniversari, ma anche per il momento storico che stiamo vivendo, no? Sì, assolutamente. E quindi è stato veramente un'esperienza straordinaria. E l'accoglienza è stata fantastica, c'è stato moltissimo pubblico, il pubblico entusiasta, sembra che è piaciuto molto, l'intesa tra di noi è stata assoluta, io ho già collaborato con Cristina Giordana, per cui sapevo già di questa complicità che creavamo in scena, che si è di nuovo riscontrata, e poi con Francesco Aurelia, che è un grandissimo attore, è stato tutto di una fluidità. Una fluidezza, qualche parola in italiano mi manca, molto totale, cioè veramente fantastico. La direzione di Judith Giordana, Judith Pujol è la direttrice di scena, e c'erano delle immagini molto potenti di Magda Puch che hanno anche dato una profondità, no, alla scena, molto interessante. L'accoglienza è stata straordinaria, francamente, infatti si è parlato, che bisognerà ripeterlo, speriamo di sì. Mi hanno comunicato il pubblico e che è necessario, cioè anche se rimanevano poi molto distrutti, molto commossi da questi testi, anche dalla musica che evidentemente ha dei momenti drammatici, e nonostante quello c'è questa necessità, no, di parlare, di sentire, di ricordare, no, per non dimenticare proprio. Assolutamente, ce ne rendiamo conto chiaramente soprattutto in questi ultimi due mesi, ma non solo. E questo spettacolo parte appunto da un tuo brano che hai scritto, Don't Forget About That, e che il titolo mi sembra insomma molto sintomatico, no? Dice molto, ed è un brano che tra poco anche proporremo un frammento ai nostri ascoltatori, ma mi piacerebbe domandare a te, questo brano tra l'altro è parte del tuo disco uscito nel 2020, Initiation to the Shadow, e volevo domandarti sul processo di composizione, come hai scelto di appunto scrivere un brano a partire da Se questo è un uomo e la figura di Primo Levi, e come poi sei riuscita anche a trasportarlo appunto dal testo, dalle emozioni, verso la scrittura della musica. Io normalmente quando scrivo e compongo musica da testi, perché che faccio abitualmente questo lavoro perché mi appassiona e mi sembra molto interessante questa comunicazione tra la letteratura e la musica, e comincio con leggere e rileggere fin di rimanere un po' tutta piena di queste parole, no? E questo modo di fare fa che poi creo direttamente sul pianoforte le sensazioni che per me musicalmente vengono fuori. Poi le scrivo, le riscrivo, le ripasso, poi se c'è una collaborazione con degli attori evidentemente il testo deve essere molto presente, e in questo caso la drammaticità c'è evidentemente, ci sono momenti che musicalmente bisogno di esprimere questo dolore, questo strazio, questa distruzione dell'uomo, no? Che viene fatta dai nazisti nei campi di concentrazione, però anche un po' nello spettacolo si è voluto creare l'idea di come la salvezza dell'uomo sta anche in questo ritrovare, nonostante l'atrocità, degli uomini buoni, no? Perché questa speranza c'è quando noi ritroviamo che in un campo di concentrazione c'è qualcuno come un personaggio che è un reale, rapporto Primo Levi ad Auschwitz, come Lorenzo, no? Che nonostante tutte le atrocità era capace di dare del pane, di passare, cioè di essere buono con gli altri, questa bontà, quindi questa speranza, questa dolcezza, la nostalgia di ciò che è stato bello anche, quindi la speranza di arrivare di nuovo a quel punto lì, la speranza del ritorno, no? questo ci salva. Quindi abbiamo anche voluto creare, e musicalmente pure, dei momenti di evidentemente non solo di atrocità, ma anche di questa speranza che, nonostante tutto, vediamo che è così fragile, no? Perché succedono cose come quelle che stanno succedendo adesso, o proprio Levi sopravvive, sì, ma come sopravvive? Di fatto possiamo considerarlo un sopravvissuto dopo quella fine che ha fatto, che pensiamo che si sia suicidato? Quindi è veramente, uno può sopravvivere? Questa sì. È terribile, no? La domanda. A questo proposito, visto che ci ricordavi prima che tu hai conosciuto anche in persona Primo Levi, che cosa ti porti dell'incontro, degli incontri che hai avuto con lui? Primo Levi, io credo che è proprio come lo leggiamo, era così, era una persona di una grande intelligenza, di una grande gentilezza, di un certo senso dell'umor sottile, dell'ironia sottile, e simpatia, sempre con un punto di timidezza che era proprio in lui, no, per il suo carattere. E forse per la sua vocazione anche come scientifico, no? Di stare in un laboratorio chiuso, sì, con i suoi elementi, ma di una grande, di una squisita intelligenza e di un tratto personale straordinario, molto delicato, molto vicino, nonostante questa lieve forse distanza che possiamo sentire, no? Che anche questa oggettività con cui lui narra, no? fa che arrivi ancora più in fondo, sì, di, sì, noi, no? Sì. Quel che dice, perché non ha la desolazione senza aggettivi proprio, no? Assolutamente. Quindi era come scriveva proprio, una persona che apparentemente silenziosa nel suo modo di muoversi, ma molto profonda e molto contundente, come sappiamo. No? Assolutamente. Andiamo ad ascoltarci un frammento di questo tuo brano, Don't Forget About That, Sira Hernandez, dedicato ovviamente a Primo Levi, e poi rientriamo qui con te. Don't Forget About That, Sira Hernandez, che ci sta accompagnando quest'oggi per parlare di Primo Levi, ma anche per parlare appunto dei suoi progetti artistici, come appunto questo Initiation to the Shadow, che è il disco del 2020 in cui è contenuto questo brano. Un disco, Sira, in cui tu hai composto diversi brani che si legano appunto alla letteratura, al di là della figura di Primo Levi e di Se questo è un uomo, come ad esempio anche un'altra grande poeta italiana, che è Alda Merini. Sì, senz'altro, questo progetto basato e ispirato nella poesia di Alda Merini fu un momento anche molto importante, di uno spettacolo che si fece per il Teatro Accademia a Barcellona, dalla direzione di Moreno Bernardi, dove c'era già appunto, dove io ho conosciuto Cristina Giordana, e c'è stata questa collaborazione con loro, e è stato un momento intensissimo anche di il poter lavorare su questi testi così, così potenti, no? Dove queste poesie, dove così struggenti, dove c'è questa donna che veramente si spacca, no? si apre, no? In canale, si mostra in tutto il suo il suo dolore con queste poesie, ma anche con il suo amore verso la vita, no? Non solo è un dolore che trapassa il dolore stesso, no? Forse va diretto a si eleva sul dolore, no? Lei lo raggiunge quote elevatissime di dove manifesta un amore straordinario alla vita in tutti i sensi, no? Addirittura spiritualmente, potremmo dire, anche se una spiritualità molto incarnata e molto erotica, no? Però è presente anche questo elemento in lei. Sì. No? Terra Santa, ci sono angeli nel cielo, è il titolo del brano, vero? Sì, e questo è uno dei versi che appartengono al poemario del Terra Santa, che è uno dei testi che si erano fatti servire nello spettacolo, e dove si viaggia attraverso questi poemi. In quello spettacolo c'erano 5 attrici, più Moreno Bernardi, una di queste era Cristina Giordana, e era in varie lingue, cioè era in italiano, in francese, in catalano, in spagnolo anche, e si transitava da una lingua all'altra, creando un'atmosfera molto, molto interessante e molto, io penso, molto adeguata, no? A questi problemi anche un po' di schizofrenia che aveva, sì, che aveva Alda Merini, che come sappiamo entrava e usciva dallo psichiatrico, dagli ospedali psichiatrici ben giovane, purtroppo, e facendole questa psichiatria così invasiva, no? Sì, Ascolta, ma oltre ad Alda Merini e a Primo Levi, il tuo legame con la letteratura italiana e la poesia italiana è molto stretto, no? Insomma, come il tuo legame in fin dei conti con l'Italia? Sì, sì, perché io sono andata in Italia da piccola, mio padre era andato per lavoro e quindi noi eravamo andati con lui, io avevo 4 anni, quindi tutta la mia formazione fino ai 24, praticamente tutta la formazione di studi dall'asilo al titolo superiore di pianoforte, al diploma di musica al Conservatorio di Torino, Giuseppe Verdi, è stato lì in Italia, quindi la mia formazione culturale e culturalmente è maggiormente italiana, devo dire, anche se io sono di origine spagnola, quindi sono nata a Barcellona e andavo e venivo, tornavamo, la mia famiglia era qui, quindi c'è anche quella componente lì, ma dal punto di vista culturale i libri, le poesie, no? Che uno legge a scuola evidentemente erano quelle italiane, e come sai si lavorava molto bene tra l'altro la letteratura in Italia, no? Almeno nell'epoca in cui ero io. C'era questo amore alla lingua, alla propria letteratura che è straordinaria, quindi sì, ho avuto dei grandi insegnanti, dei grandi esempi. Sì, tu hai lavorato con Remo Remoli, discepolo di Arturo Benedetti, Michelangeli e Felice 40. Sì, e Felice 40. Remo Remoli è stato il mio professore di pianoforte, e con 40 avevo anche la chance, oltre di fare lezioni di pianoforte, visto che lui era un compositore, di studiare composizione. E lui era il direttore del conservatorio per alcuni anni in cui ero io lì, ed era un uomo tra l'altro molto aperto, per cui era quello che introdusse lo jazz nel conservatorio, che non c'era, la chitarra che non c'era, che non considerate strumenti folclorici o di secondo ordine, e invece lui era una persona che collaborava con Raf Cristiano, che era un pianista di jazz in quell'epoca, critico della stampa di jazz, quindi è uno degli elementi per me importantissimi al momento della composizione, con cui come io lavoro, è l'improvvisazione, che è una qualcosa che nell'ambito della classica si sta riscoprendo, dico riscoprendo perché prima era normale anche, no? Nella musica barocca, nella musica anche romantica, se vuoi, in Catalogna con Enrique Granados, ma un po' anche, erano grandi improvvisatori, ma pian piano si è abbandonato per essere molto fedeli allo spartito, non ci si permetteva più neanche una virgola, no? Né un respiro fuori dalle note scritte. E invece questo lavorare con molti amici miei che poi si sono dedicati anche all'ambito del jazz e di altri generi musicali ha fatto che io mi formassi anche nell'improvvisazione, che poi ho perfezionato qui con Emilio Molina e con professori che adesso attualmente insegnano alle SMUC o al Reina Sofia a Madrid, e si insegnano giustamente improvvisazione. Perché credo che è un elemento fondamentale per la musica. La musica nasce da. La musica per me deve essere un fluire, che mai si ripete uguale, esattamente uguale. Deve avere questo punto di freschezza, no? Anche se sei davanti a un ruscello, no? E sembra la stessa, ma non lo è, no? L'acqua passa diversa, no? Un po' per un riflesso di luce, per una nota, e questo momento di questo movimento della musica, che è il movimento della vita, no? Bisogna mantenerlo vivo. Scusa la reiterazione. No, assolutamente. E tu, tra l'altro, insomma, hai lavorato su tanti compositori. Ricorderei poi le registrazioni di Bach nell'anno 2000, che era appunto il 250esimo anniversario della morte di Johann Sebastian Bach, ma poi anche Scarlatti, Chopin, Albéniz. E poi abbiamo parlato anche del tuo recente disco, quello del 2020, dove si trovava anche il brano dedicato a Primo Levi o quello dedicato ad Alda Merini. Ma ora so che hai lavorato recentemente invece a un progetto che vedrà la luce a breve, di cui insomma possiamo almeno accennare qualcosa, che ha a che fare forse insomma il più grande scrittore italiano, che è Dante. Sì, questo è stato un impegno ho osato mettermi in questo mondo dantesco è stata una proposta che mi fecero per presentare appunto un lavoro musicale nella Biblioteca Nazionale a Madrid nel 700 anniversario. E giustamente il 25 marzo, che era il Dante D, è quando io ho avuto questa occasione magnifica di suonare questo partito, questa musica scritta durante la pandemia, perché mi era stata già proposto quasi 2 anni prima. E che mi ha accompagnato durante la pandemia terribile, e questo viaggio per l'inferno, il purgatorio e il paradiso. E ho avuto appunto l'occasione di suonarlo lì, che fu un atto molto riconosciuto, importante, anche lì in streaming mondiale, perché c'era l'Istituto Italiano di Madrid, anche tutta la diffusione che c'era in quei giorni lì per Dante. E a partire da lì quindi si è poi creato questo interesse, e mi era piaciuto, quindi una grande etichetta discografica che mi ha proposto di inciderlo e di registrarlo, e verrà adesso fuori per fine maggio, primi di giugno, il lancio del single, e quindi magari sono molto contenta. Immagino, noi con una gran voglia di ascoltarlo e di averti magari anche in futuro nostro ospite per presentarlo come il fo, no? Con tutti i crismi, e quindi poter parlare anche appunto della tua musica, e in questo caso della commedia, la Divina Commedia di Dante. Noi ti aspettiamo e ti ringraziamo di essere stata con noi. Ci salutiamo con un frammento anche di quel brano di cui parlavamo, dedicato ad Alda Merini, Terra Santa, ci sono angeli nel cielo. E con questo brano ci salutiamo e ti aspettiamo presto, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo nuovo disco. Grazie mille, Steven, un piacere, un lusso essere con voi adesso. Thank you. Zibaldone. Radio Contrabanda. Per me, dipinta per me, Claudia, però confesso che tu mi piaci di più, Nadia, di tutte e tutto mi va, la la la, sempre, non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini mi accarezzano. Poi apro gli occhi e allora mi accorgo che non c'è nessuna accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Era una canzone del 1963, quella che ci siamo appena ascoltati, Uno per tutte, Emilio Pericoli. E Banzo, dici, perché, insomma, i nostri ascoltatori diranno, ma perché mandiamo in onda questa canzone dopo aver parlato di Primo Levi? Vuoi dirlo tu, dai, dillo tu. Beh, sì, c'è sicuramente un cambio di argomento piuttosto drastico, ma anche un evidente collegamento all'attualità, perché questa canzone aveva partecipato appunto nel 1963, come hai sottolineato, a Eurovisione, o come si chiama adesso, Eurovision, ecco perché nessuno dice più Eurovisione, quindi era la canzone che aveva rappresentato l'Italia in quell'edizione del festival. Arrivando terza, ed essendo selezionata, come spesso è successo in Italia, tra i partecipanti di Sanremo, del Festival di Sanremo, che non è il Festival Tenco di Sanremo di cui parleremo tra poco, vabbè, insomma, ma forse non c'è neanche bisogno di spiegarlo. E in ogni caso, dire due cose, Banzo, innanzitutto che proprio in questi giorni a Torino si sta tenendo appunto l'Eurovision Song Contest, come si chiama, Song Festival, adesso mi perdo un po' con i nomi, comunque Eurovisione, che ormai è diventato anche in Italia, dopo anni insomma di averlo snobbato, un momento importante anche dal punto di vista mediatico. E poi ricordare appunto che l'Italia, al di là dell'anno scorso, con i Maneskin aveva vinto in due occasioni, ed è per questo che poi appunto quest'anno si è organizzato in Italia, a Torino in concreto, l'Eurovision, perché l'Italia l'anno scorso è stato paese vincitore del festival, ma che l'Italia aveva già vinto anche in altre due occasioni l'Eurovision, ossia nel 1964, l'anno successivo al brano che ci siamo ascoltati di Pericoli con Gigliola Cinquetti, Non ho l'età. E poi forse incredibilmente, direi, io non so cosa tu ne pensi, Banzo, nel 1990 con Toto Cotugno, che presenta una canzone dal titolo anche abbastanza peculiare, un po' figlio dei tempi, che è Insieme, due punti, 1992. Non so se tu la ricordi. Allora, da dove comincio? Mi hai dato tantissimi spunti, tantissimi input, non so. E in effetti probabilmente avevo dimenticato di ricollegare la canzone di Pericolo al fatto che si sta appunto svolgendo in questi giorni la attuale edizione dell'Eurovision Song Contest, confermo. Che domani sera è la serata finale, ecco, giusto per precisare, sabato sì, 14 sabato maggio. È giusto così. E, appunto, non so da dove cominciare, Steven, perché mi piacerebbe ad esempio parlare della differenza che c'è nella percezione dell'Eurovision fra Italia e Spagna, ma torniamo un attimo brevemente a Toto Cutugno. Era una canzone europeista, ecco. Figlia dei tempi, che ci parlava della bellezza dell'Unione Europea e dell'Europa Unita. E figlia, insomma, della fine della Guerra Fredda, insomma, era del 1990, era caduto il muro di Berlino, c'era la riunificazione tedesca, insomma, adesso non so se Insieme 2024-2025 potrebbe essere il titolo di una canzone, lo dubito, ecco. Ne dubito anch'io, però su Insieme 1992, per dire che forse ha avuto un impatto nel resto d'Europa molto superiore a quanto non l'abbia avuto in Italia, e appunto stiamo parlando di un festival europeo, una sera a Barcellona mi sono ritrovato insieme ad altre quattro persone, delle quali solo una era italiana, le altre tre provenivano dall'ex Jugoslavia, per semplificare, e tutte cantavano a memoria questa canzone, anche quelle che non erano di madrelingua italiana, conoscendo il testo a memoria, questo per dire, ecco. Guarda te, è interessante questa cosa, ma insomma, per dire un po' così, l'Italia all'inizio non ha snobbato affatto Eurovision, che è nato nel 1956, quindi poco dopo il Festival di Sanremo, tanto che nei primi anni, insomma, si investì molto, insomma, nel 58 Domenico Modugno, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, partecipò all'Eurovision con Nel blu dipinto di blu, meglio conosciuto come Volare, si classificò terzo all'Eurovision dopo aver vinto Sanremo, l'anno successivo ancora Modugno con Piove, poi insomma, così per citare qualche nome, Renato Rascel con Romantica, Claudio Villa con Addio Addio, poi insomma Bobby Solo a metà anni 60, ancora Modugno nel 66 con Dio come ti amo, Sergio Endrigo con Marianne nel 68, insomma Iva Zanicchi, Gianni Morandi, poi ecco l'Italia dagli anni 70, quando anche Sanremo andò insomma un po' in declino, innanzitutto scelse gli artisti a seconda non tanto dei vincitori di Sanremo, ma di chi aveva invece vinto Canzonissima, e poi insomma si disinteressò, tanto che la Rai addirittura anche insomma snobbava completamente Eurovision, che in Italia non era seguito, non era neanche mandato in onda dalla televisione pubblica. Però insomma ancora negli anni 70, per dire un po' di nomi, Banzo, Wes e Dori Ghezzi nel 75, Albano e Romina nel 76, Mia Martini nel 77, Ricchi Poveri nel 78, insomma poi negli anni 80 abbiamo Alan Sorrenti, Riccardo Fogli, Alice Franco Battiato, che tu ami molto, con I treni di Tusor nell'84, insomma, vabbè. Ecco, qui, Steven, se mi permetti, siccome siamo arrivati agli anni 80, è il momento nel quale l'Italia comincia a latitare, mancando le edizioni 1981-1982, poi quella dell'86, arriviamo, dopo una serie di presenze consecutive, Toto Cutugno, nel 1990 c'è ancora qualche partecipazione, arriviamo al 1993 con Enrico Ruggeri, poi praticamente dal 94 al 2010 un vuoto, un abisso del senso e dell'Italia. L'Italia non partecipa, aspetta però, eccetto, con un'unica eccezione, sì, che forse la potevano anche mantenere, diciamo, la mancata partecipazione italiana, perché nel 97 chi partecipa, Banzo, lo vogliamo dire? i mitologici Jalis con l'altrettanto mitologica Fiumi di Parole Rios de Palabra nella sua versione in spagnolo. Ma sì, insomma, si potrebbe anche tradurre in tutte le lingue del mondo e resterebbe quello che è, però ecco, questi Jalis che comunque da allora hanno continuato a proporre canzoni per partecipare a Sanremo, a quanto pare, sarebbe anche bello vederli all'Eurovision, forse no, comunque appunto l'Italia ha ricominciato a partecipare nel 2011 e mi sono reso conto l'anno scorso dalla Spagna del fatto che probabilmente a causa della vittoria dei Maneskin a tutti in Italia è cominciato a importare tantissimo dell'Eurovision, e qui arrivo al finale della riflessione che volevo fare. C'è proprio questa enorme differenza, possiamo dire che in Spagna per gli spagnoli in generale Eurovision è stato quello che per noi era Sanremo, quindi sì. Aveva una dimensione collettiva europea di più ampio respiro, mentre noi diciamo che guardavamo verso l'interno, ecco. Però in che senso assomigliava al nostro modo di vivere Sanremo? Beh, nel senso che è un evento familiare che si riuniva spesso tutti i membri intorno alla TV e poi anche gruppi di amici. Poi negli ultimi anni ha avuto questa svolta volontariamente trash che ha favorito, diciamo, questo tipo di ritrovo social con commenti in diretta su Twitter e altre reti. Cercatevi l'artista montenegrino del 2017, non dico altro. Comunque non dovrò cercarmelo anch'io perché purtroppo non sono a conoscenza di questa perla. Però sì, ecco, c'è appunto il fatto che molto spesso mi veniva chiesto se in Italia seguivamo Eurovisione, e probabilmente erano ancora gli anni nei quali il nostro paese continuava a mancare, ed effettivamente all'epoca la mia conoscenza della storia della manifestazione era molto più ridotta e probabilmente aumentata anche a causa dell'enfasi che gli spagnoli, dell'enfasi della partecipazione che gli spagnoli sentono e nutrono per questo festival. Eh sì, dai, comunque nel 79, non l'ho citato, c'erano anche i Mattia Bazar con Raggio di Luna, ce l'andiamo a sentire e poi rientriamo qui in onda. Sembro bugiardo, non sai, c'è un mondo sincero che non mente mai. Quando un raggio di luna tra il cielo e le stelle si accorge di me, ed un soffio di vento fa perdere il tempo, la fretta che ha. Quando un raggio di luna cancella ogni ombra di dubbio e di falsità, io più libero e vero, io volo sincero. A volte è normale, non vedo più te. da soli, sia in casa che fuori, ma sempre io e te. Quando un raggio di luna improvvisa ogni volta una nota diversa per noi, per sera la nostra canzone sarà. Per sera la nostra canzone sarà. Davvero fine 70s questa canzone dei Mattia Bazar, Raggio di Luna. 1979 appunto parteciparono all'Eurovision Song Contest insomma in rappresentanza dell'Italia. Banzo, una battuta telegrafica su questa canzone. Con questa canzone arrivarono 14esimi e se posso dire a me personalmente è sembrata un po' pianobaristica, ecco. Molto. Non è forse, non è sicuramente il brano più memorabile di una lunghissima e onorata carriera, ecco. No, è proprio così. Però adesso noi, visto che nominavamo Sanremo, andiamo a parlare di Sanremo da un altro, diciamo, da un'altra prospettiva, quella del Festival Tenco, che nacque proprio all'inizio di quegli anni 70. Lo facciamo parlando di Amilcare Rambaldi e lo facciamo insieme a Sergio Secondiano Sacchi, che è direttore artistico del Club Tenco di Sanremo. Andiamo con una prima canzone e poi capirete perché la mandiamo in onda. Al lungomare di qualche paese francese, trafiggendo con gli occhi gli azzurri, guardava laggiù. L'ho visto, guardava a sinistra una nebbia velata. L'ho visto, guardava Sanremo, lontana e italiana. Con sotto le scarpe silenzi di alta montagna. E dietro le spalle guizzanti chitarre di Spagna. Silenzio bambino, sta zitto, non ridere o piangere. Sta bravo bambino che qui sto parlando di Amilcare. Be, be, be, be, be. Bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Andavano a caccia di artisti, anche menefreghisti. Artisti comunque, artisti ovunque e comunque. Un po' meglio di certi poeti di oggi qualunque. Aedi del vuoto invocato e non mai esplorato. Cercavano uno per farsi contare una storia che fosse inventata o infuocata da antica memoria. Bambino, non devi toccare, giocare o anche fingere. che questa qui, vedi bambino, è roba di Amilcare. E questa era la voce inconfondibile di Paolo Conte, roba di Amilcare, un pezzo di qualche tempo fa, e lo mandiamo in onda perché dopo aver parlato di Primo Levi, quest'oggi parliamo di Amilcare e Rambaldi, due persone che in fin dei conti hanno molte cose in comune, a partire non solo dalla valorizzazione della cultura, ma anche dalla lotta al nazifascismo, in modi e tempi diversi ovviamente. E lo facciamo insieme a Sergio Secondiano Sacchi, che torna a trovarci dopo un po' di tempo. Sergio, bentornato a Zibaldone. Grazie dell'invito, buongiorno a voi. Sì, quest'oggi Sergio parliamo di Amilcare Rambaldi, lo facciamo con te anche perché tu hai conosciuto molto bene Amilcare Rambaldi, che è stato il fondatore del club Tenco di Sanremo, di cui tu sei ora il direttore artistico. E lo facciamo anche a partire per una ragione, perché il prossimo 28 maggio, ne abbiamo già accennato qui a Zibaldone, si terrà a Barcellona, sabato 28 maggio alle 21, alla Sala Luz de Gas della Ciudad Condal, uno spettacolo a più voci che si intitola proprio Casa Rambaldi e che ad Amilcare Rambaldi è dedicato. Lascio a te spiegare ai nostri ascoltatori chi è Amilcare Rambaldi e perché è importante ricordarlo. Noi lo ricordiamo da 12 anni, tra parentesi, perché Cose di Amilcare, l'associazione che Steven e io portiamo avanti da 12 anni a Barcellona, è intitolata proprio ad Amilcare Rambaldi. Rambaldi è stato colui che nel 72 ha fondato il Club Tenco e nel 74 ha cominciato l'avventura con la rassegna della canzone d'autore, ma aveva dei precedenti illustri. Nel 1945, difatti, come membro del Comitato Nazionale di Liberazione, del Partito Socialista, come esponente del Partito Socialista, tra le manifestazioni possibili del rilancio della città di Sanremo, aveva pensato a un festival della canzone. Non se ne fece niente, finché dopo l'idea fu ripresa quando Nisa diventò ufficio stampa del Casinò, e qui che era amico di Rambaldi, e quindi partì l'avventura del festival. Non era il festival che si immaginava il buon Amilcare, e dopo il suicidio di Tenco, dopo ormai una nuova ondata di cantautori che stava emergendo, ma che le grandi manifestazioni non prendevano in considerazione, che la RAI stessa teneva un poco a margine, Rambaldi si decise a fondare il Club Tenco, rispondendo tra l'altro a un articolo apparso sulla rivista Su Oggi Illustrato da Tino Roberti, il direttore, che diceva, recensendo i dischi di Guccini, Vecchioni e Ciampi, aveva intitolato l'articolo "Bravi, bravissimi, ma chi li vuole?" E Rambaldi rispose "Li voglio io", con una lettera aperta, e difatti fondò il Tenco. Sì, la cosa interessante tra l'altro è che Rambaldi, al di là appunto di questo interesse per la canzone, per la cultura, in realtà all'epoca non era più un giovincello, e dall'altra lui si dedicava a tutt'altro, no Sergio? Sì, difatti quando fondò il Tenco, Amilcare Rambaldi aveva 61 anni e di mestiere faceva l'esportatore di fiori, mandava i fiori di Sanremo e spediva in Olanda, in Germania, lì c'erano i suoi clienti, e quindi si occupava di tutt'altro. La canzone con cui abbiamo aperto Roba di Amilcare è una canzone che Paolo Conte, che insomma la cui traiettoria artistica è stata legata fin dagli inizi al Club Tenco di Sanremo negli anni 70, ha dedicato ad Amilcare Rambaldi praticamente alla fine, 20 anni dopo, quando Amilcare purtroppo ci ha lasciato. Sì, c'è anche una, nella canzone c'è anche una dedica all'altro grande compagno che era Bigi, il farmacista di Dolce Acqua, che con Rambaldi ha fatto una coppia di, che ha fatto del Tenco il grande calore, ha costruito quel grande calore umano intorno al quale si è costruita tutta la grande famiglia del Tenco. Se non ci fossero stati quei legami profondissimi di amicizia, forse le sole idee di Amilcare e Rambaldi, che erano state grandi, non sarebbero state sufficienti. Ci voleva poi un grande spessore umano, ma questo ha fatto di Rambaldi grande uomo, che è un genio da un punto di vista, e lo dico sempre senza paura di sembrare esagerato, assolutamente geniale dal punto di vista organizzativo, ma dietro a questo c'era un grandissimo spessore umano, per cui si è sempre fatto amare da tutti. E non per niente Paolo Conte l'ha ricordato proprio così. Sì, sì. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, non vi dico di chi è, la voce la riconoscerete subito, e poi parliamo anche del disco che contiene queste canzoni. Amilcare Rambaldi è il titolo, la voce è quella di, vediamo se lo indovinate voi. Ognuno dedica le canzoni alle sue donne, l'ho voluta dedicare a Amilcare Rambaldi. È un omaggio a Amilcare Rambaldi di questo Club Tenco, e volevo dedicargli questa canzonetta a Amilcare Rambaldi. C'è chi canta per l'amore, c'è chi canta in ogni posto, c'è chi canta sul dolore, c'è chi canta il 4 agosto, c'è chi canta perché soffre e chi canta in Francia o in Cile. C'è chi canta solamente quando l'anno è bisestile, c'è chi canta ritmi freddi, c'è chi canta ritmi caldi. Questa sera vuoi cantare per Amilcare Rambaldi. Rambaldi! La trovate sull'elenco sotto il nome Club Tenco. Reparto fiori esportazione. Rambaldi dice c'ha quasi 80 anni, come fa non è normale. Io son sicuro che lui c'ha 27 anni, però se li porta male. Rambaldi che fa un po' di confusione fra il Club Tenco e i fiori. E ieri in Belgio gli hanno chiesto le gardenie, ci ha spedito De Gregori. Rambaldi, che i più grandi musicisti in questo palco ha messo in fila. Rambaldi è capace il prossimo anno a far cantare qui Wojtyla. Rambaldi ci ha portato della musica da noi le meglio stoffe. Rambaldi prima o poi organizza un duo fra Wojtyla e Gorbaciov. Rambaldi vuole invitare Craxi a cantare una canzone, ma quella sarà l'ultima rassegna, Craxi ruba le poltrone. Era ovviamente Roberto Benigni, Amilcare Rambaldi, una canzone dedicata al fondatore del Club Tenco, contenuta in un disco uscito dopo la scomparsa di Rambaldi. Il titolo del disco è Roba di Amilcare, 21 interpretazioni inedite eseguite al Tenco, appunto oltre a Roberto Benigni, da Guccini a Ornella Vanoni, a Chico Buarque, a Paolo Conte ovviamente, a Fabrizio D'Andrea e tanti altri. Sergio, un disco molto bello, immagino che a te anche ti tocca da vicino, e una canzone, questa di Benigni, una performance immagino indimenticabile. Ah certo, certo. Io ricordo anche che sono stato un po' la causa di questa canzone, perché nel pomeriggio ero stato con Benigni a comprare una fisarmonica che lui voleva regalare a Tom Waits. Eravamo nel 1986. E parlando gli dissi: sai, quest'anno al Tenco tutti i cantanti che partecipano devono fare una canzone dedicata ad Amilcare Rambaldi. Io lo dissi un po' come provocazione, cioè non era affatto vero, ma sapendo che puntai molto sulla capacità di improvvisare di Benigni, quale Benigni fece finta di crederci, perché poi Benigni era straordinario in questo, ti prendeva sul serio anche quando tu in realtà stavi dicendo delle cose un po' sparate. E però la canzone la fece. Io ne ero certissimo che l'avrebbe fatta una canzone sulla base, e infatti mi diedero la ragione. E tra l'altro in questo disco c'è anche un altro amico storico del Tenco che è venuto anche a Barcellona negli anni scorsi, che è Davide Riondino, ed andiamo a ascoltarci proprio da quello stesso disco una canzone molto bella di Davide Riondino. Non so se hai voglia di introdurla tu, Sergio. Con lo stesso Benigni, di questi affabulatori toscani che hanno una grandissima capacità di improvvisare. E quindi questa è un'altra canzone dedicata ad Amilcare Rambaldi, ma proprio non alla persona, non soltanto alla persona di Amilcare, ma a tutto ciò che Amilcare è riuscito a costruire. Praticamente vengono rievocate le atmosfere che si creano al Tenco tra, in quegli anni, cantautori, disegnatori, umoristi, tutto questo grande piccolo mondo che frequentava le nottate del Tenco. Allora ci andiamo a sentire Milonga Bislonga, lui è Davide Riondino. Novembre, mese supremo di pioggia nella campagna, il contadino si bagna e il cittadino sonnecchia, rabbrividisce la vecchia travolta dai raffreddori, e salgono i cantautori verso la bella Sanremo. Sanremo è una zona franca dove non passa l'inverno, primavera fa governo 360 giorni, ogni volta che ritorni offrono sempre dei fiori a questi camminatori, perché camminare stanca. Sarà per la carenza di pagamento in denaro che torna lo sguardo chiaro della prima vocazione. Non cerca retribuzione chi naviga in malumori, naturalmente signori, con qualche recrudescenza. Si va per benemerenza di antica cortesia e per la malinconia che sempre le corre accanto. Non ascolta il proprio canto, chi canta a voce alta, così diceva Atahualpa, e rimane una sentenza. Di bevitori d'assenza ne ho visti passare tanti, americani giganti e russi bassi e secchi, francesi giovani e vecchi e suonatori andalusi, non ho mai visto dei drusi, ci sono delle carenze. Poi ci sono conferenze di deliziosi oratori, vengono disegnatori a fare i loro disegni, ma i migliori convegni durano fino al mattino, lì solamente il vino misura le resistenze. Qui ci sono quintessenze di monaci vaganti, presenze folgoranti di uomini eccezionali, Ruggeri dai molti occhiali, Fossati che vien dal mare e Paoli che sa di sale, sono serate intense. Dirà delle sue esperienze Paolo Conte parigino, avvocato cisalpino, e quando sarai più stanco sarà necessario un tango di Susanita Rinaldi per Amilcare Rambaldi e tutte le sue imprudenze. Nell'ora della trasparenza, nell'ora della luce fiocca, Tom Waits dalla voce roca concluderà la festa, dirà con la mano destra del caso che ci amministra e con la mano sinistra benedirà l'esistenza. Ma tra queste desinenze dominerai in toscano, o Benigni sovrumano, nel ritmo straordinario dell'esole solitario, e noi due faremo il paio, perché tu sei di Vergaio e io sono di Firenze. Venite dunque signori, venite belle a Sanremo, faremo quel che faremo e forse qualcosa ancora. Fin quando ci si innamora bisogna darsi una mossa, poi giù tutti nella fossa, e buonanotte suonatori. Eh sì, effettivamente questa canzone di Riondino ci fa capire un po' qual è tutto quello che ruota attorno al Tenco, quello che succede in quella settimana a Sanremo, ormai da 50 anni. Sergio, a proposito, quest'anno sono proprio i 50 anni dalla fondazione del Club Tenco, in quel lontano 1972. Sì, 72, quindi c'è il 50esimo, non della rassegna, ma del Tenco. E difatti, cioè, è bello, mi piace in questo momento rievocare, poi sai, per me sono 50 anni di vita, quindi che ho passato, cioè un po' ci sono degli aneddoti personali che mi riguardano, che sono stati anche rievocati in questo disco, dove ci sono queste canzoni che stavamo ascoltando, che tra l'altro faceva parte, è un disco che avevo fatto insieme a Vincenzo Mollica, altro grande amico che mi piace ricordare in questo periodo. Un CD book con un centinaio di pagine, dove addirittura Amilcare aveva scritto i suoi primi 80 anni di vita, diceva. Era un articolo che aveva scritto quando aveva compiuto 80 anni, e quindi l'ho reinserito in questo libretto. Ascolta, immagino che siano tantissimi i ricordi che tu hai con Amilcare Rambaldi, ma se dovessi citarne qualcuno, insomma così, botta e risposta, che aneddoto, che ricordo menzioneresti? Beh, visto che lo stiamo omaggiando qui a Barcellona, ricordo il primo viaggio che ho fatto a Barcellona insieme ad Amilcare Rambaldi. Siamo partiti nel tentativo di contattare Luis Siak, che in Italia non voleva più venire a cantare perché aveva avuto due sfortunatissime esperienze, una a Torino e l'altra a Bologna, e siamo venuti un po' portati dall'astuto Joan Molas, che era il suo manager, ma era il manager di tutti i maggiori cantautori catalani, con l'esclusione di Joan Manuel Serrat, che cantavano in quel periodo. Allora, partimmo, Rambaldi aveva sempre una grande grinta, l'uomo aveva anche aveva 68 anni, e ci siamo messi in viaggio. Lui si cantava per 15 giorni al Teatro Romeo, e poi siamo stati a casa sua, e alla fine ha detto subito di sì, non appena ha conosciuto Amilcare. Se probabilmente fosse andato da solo, non sarei riuscito nell'impresa. E proprio visto che citavi anche Lluís Llach e i cantautori catalani, la connessione tra il Tenco e la canzone d'autore catalana fin dagli anni 70 è stata molto stretta, e questo anche ci riporta... Prego. E il sindaco Narcís Serra, che fu il primo sindaco socialista di Barcellona, insignì al Mica Rambaldi dell'onorificenza amico di Barcellona, proprio per aver connesso la cultura catalana in Italia. Difatti eravamo gli unici che ci occupavamo di cose. Anche questo mi ricorda una cosa: io scoprì Luis Siak in un viaggio in Francia, che comprai i dischi perché in Francia si trovavano, e tornato a casa dissi a Amilcare: questo dobbiamo assolutamente portarlo. Tentammo il primo anno, ma non ci riuscimmo perché lui non voleva più venire a cantare in Italia. Joan Molas però astutamente ci mandò Pi de la Serra. Quindi una volta che si sincerò che il Club Tenco era un'organizzazione dilettantistica sotto certo aspetto, perché nessuno lo faceva di professione, ma di altissima professionalità, allora rassicurò Jack, e quando venimmo a Barcellona Jack fu convinto, certo, già prima dell'efficienza da Molas, e poi conosciuto a Michele Ramballi, a cui era impossibile dire di no. Ascolta, dico, ricollegandoci all'attualità, il 28 maggio, lo ricordavo prima, a Luz de Gas di Barcellona ci sarà questa serata intitolata Casa Rambaldi. Casa Rambaldi in che senso? E lo dico anche perché ci collega un po' al ponte tra Sanremo e Barcellona, tra la canzone d'autore italiana e catalana, la storia del Tenco e la storia appunto della Ciudad Condal. Ma perché in questa serata cercheremo di ricostruire quello, un ponte, quello che Amilcar ha gettato tra la canzone italiana, cercandola anche di fare uscire dai confini nazionali. E se Paolo Conte è arrivato a Parigi è stato grazie a Louis Siak e al Club Tenco, cioè la prima esperienza al Teatro della Ville l'ha avuto con questo. La Catalogna è importantissimo, e nella vita di Amilcar sono stati tantissimi cantautori catalani che hanno partecipato al Tenco. Posso ricordare Luis Siak, Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Roger Mas, Marina Rosselló, Pere Tapies, tantissimi, Eric Arnaez. E quindi è stato sicuramente il posto privilegiato. Era una canzone che aveva bisogno di riconoscimenti, perché il franchismo l'aveva sempre tenuta un po' soffocata. E quindi noi faremo canzoni di cantautori italiani, quelli cari a Rambaldi, non necessariamente i più famosi, anzi andremo a ripescare cantautori assolutamente sconosciuti, ma di grandissimo valore, e che a Rambaldi amava molto, e verranno cantati o in spagnolo, o in catalano, o in inglese. E d'altra parte canzoni di cantautori catalani che verranno cantate invece in italiano. Quindi questo scambio. Eh sì, partecipano tanti nomi, da Peppe Voltarelli a Joan Isaac, da Russo Sala a Wayne Scott, dai fratelli Alessio e Giancarlo Arena a Enrica Ernaiz, per menzionarne solo alcuni, ma ci sono anche tanti altri, tra cui musicisti che verranno appositamente dall'Italia, come Alessandro D'Alessandro, Michele Staino e Daniele Caldarini. Andiamo ad ascoltarci ora una registrazione live dal Tenco del 1989, gli amici, loro sono Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. Poi entriamo un'ultima volta qui insieme a te, Sergio, perché ti volevo domandare ancora altre cose. La canzone che ascolteremo è dedicata a Bigi, proprio a Bigi, al compagno di Amilcar Rambaldi nell'avventura del Tenco. Ringraziamo soprattutto per averci sopportato fino a quest'ora tardissima. Il nostro breve spettacolo, la nostra cosa sarebbe dovuto finire qui, ma c'è un ma. Abbiamo ancora una canzone che in maniera molto rapida vogliamo dedicare a un nostro amico che, come tutti sappiamo, ci ha lasciato qualche tempo fa. E vogliamo così, in maniera rapida ma molto affettuosa, e tutti quelli che lo conoscevano lo sanno, dedicargli questa canzone che gli piaceva e gli piacerebbe e probabilmente gli piace ancora adesso che la sente. Amici veri, purtroppo per fortuna, non sono vagabondi o appai a luna. Per fortuna purtroppo, ci tengono alla faccia, quasi nessuno batte o fa il magliaccia. Non sono razza padrona, non sono gente arcigna, siamo volgari come la gramigna. Non so se pregio colpa, esser fatti così, c'è gente che è di casa in serie B. Contandoli uno a uno non son certo parecchi, son come i denti in bocca certi vecchi, ma proprio perché pochi son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare il mondo. Non siamo razza d'artista né maschere da gogna, e chi fa il giornalista si vergogna. Non che il fatto ci importa, chi non ha in qualche posto un peccato o un cadavere nascosto. Non cerchiamo la gloria, ma la nostra ambizione è invecchiar bene, anzi direi benone. Per quello che ci basta, ma non c'è da andare lontano, e abbiamo fisso in testa un nostro piano. Se e quando moriremo, ma la cosa è insicura, avremo un paradiso su misura, in tutto somigliante al solito locale, ma il bene non si paga e non fa male. E ci andremo di forza senza pagare il fio di coniugare troppo spesso in Dio. Non voglio mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ci ha schiappato lui. E quindi ci sopporti, ci lascia i nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi. Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti fra santi tristi e noi più divertenti. Vedetti assunti in cielo pur con mille ragioni, fra noi che la massa dei rompi coglioni. Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, anche le loro voci ovviamente sono inconfondibili. Gli Amici, era il Club Tenco del 1989, sono passati più di 30 anni. Sergio, ci hai citato alcuni degli artisti che sono passati dal Tenco, alcuni degli artisti cantautori più amati da Amilcare Rambaldi, ma insomma se così volessi ricordarne qualcun altro, chi menzioneresti? Beh, cioè, i tre grandi sicuramente sono il trio Paolo Conte, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni, ma dietro a questi ci sono una serie di cantanti che poi sono spariti, tipo Mario Panseri che morì poco dopo, Gianni Siviero che è stato riscoperto da poco e a cui Holden recentemente ha dedicato un intero disco di canzoni. Cui sarà nostro ospite prossimamente. Sì. Certo. Poi c'è Tito Schippa, poi c'è Lucio 48. Ci sono cantanti che insomma non sono diventati famosi, ma straordinariamente bravi. Certo, poi c'è stato il più grande, almeno il più famoso, di tutti coloro che sono passati al Tenco, o diciamo il colpo mediaticamente più grande che è riuscito a fare a Rambaldi, che è stato Tom Waits. Parliamo dell'anno 86, se non sbaglio, 87? 86, esattamente 86. L'anno della canzone di Benigni, Rambaldi. Perché appunto... Tom Waits fu... E Tom Waits venne a Sanremo di Benigni, via Benigni, portato perché... da Benigni, perché avevano fatto insieme Down by Law il film di Jim, quindi Jarmusch. Erano diventati amici e quindi Benigni convinse Tom Waits a venire a Sanremo. Sì. E difatti ho anche un ricordo personale, uno dei tanti. Quell'anno mi fermai a Sanremo a qualche giorno in più dopo la rassegna, c'era mia moglie che non era un po', aveva un problema, doveva essere operata, quindi abbiamo detto dopo tanto stress concediamoci qualche giornata in più, e anche Tom Waits si fermò qualche giornata in più, anche Benigni. Una sera fummo a mangiare, guarda caso, a Bussana Vecchia, da un catalano, da Peppe, che aveva un ristorante catalano a Bussana Vecchia, ci diede una saletta, eravamo una dozzina di persone. Poi Amilcare cominciò a, c'era una chitarra lì, cominciò a chiedere a tutti di cantare canzoni. Toccò persino a me, perché una canzone che lo toccava da vicino, di Brel, che io ho cantato ho tradotto in italiano, mi toccò cantarla. Dopodiché toccò la chitarra, passò a Tom Waits, e Tom Waits con in 3 secondi la accordò in maniera diversa dalle note e cominciò con questa canzone che andiamo Time ad ascoltare, ed era un brivido assoluto, è uno dei ricordi più intensi, dei ricordi musicali, ma anche non soltanto musicali, che ho avuto nella vita. Time, Tom Waits, con questa canzone ci salutiamo. Sergio, ti ringraziamo di essere stato con noi e ricordiamo che il 28 maggio alle 21 alla Sala Luz de Gas di Barcellona si terrà questo spettacolo a più voci, Casa Rambaldi, di cui abbiamo parlato in questa puntata di Zibaldone. Sergio, grazie davvero e un grande abbraccio. Alle 21 puntuali, puntuali alle 21. Puntualissimi. Grazie. Time, come dice appunto Tom Waits, puntuali, ecco, il tempo è importante. Certo. The smart man is on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws, and you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time. Time, and it's time, time, time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away, and the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. It's time, time, time that you love. And it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she puts pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. Continua a crescere nonostante le difficoltà il mercato del lavoro. Mosca cerca dei veri nazisti per la parata del 9 maggio, anniversario della vittoria. Nessun imbarazzo, ma si tratta di contratti a termine. Putin si scusa con Israele per le parole di due giovani palestinesi che avevano anche creato una chat chiamata «Noi siamo europei come voi». Conte attacca Draghi sulla guerra, l'amore, le acrobazie, le gioie. E perché il premier non viene in Parlamento a parlare dell'adunata dei cugini di campagna nelle grandi capitali europee? Letta getta acqua sul lago di Garda, ma non sarà sufficiente a scongiurare la siccità. A Milano torna in presenza il salone degli hacker, che bloccano interi quartieri senza nessun imbarazzo. Milioni di utenti utilizzano ancora la parola chiave 100621 o la data di nascita di Filippo di Edimburgo. Secondo il quotidiano inglese The Guardian è stata fregata la password di Renzi, che a sorpresa sarebbe il CNEL. Anche un una tantum di 30 euro per 28 milioni di italiani nel pacchetto di aiuti varato dal governo. Confindustria, ora bisogna farsi aprire la porta per poi raggirarli e derubarli. La First Lady americana Jill Biden in visita a sorpresa all'Ausi faunistica degli Alpini, che fotografano la storia. Il ministro Franceschini, un ritrovamento eccezionale. La regina Letizia di Spagna ad una premiazione in abito bianco, lo stesso indossato dal patriarca ortodosso Kirill. Nessun imbarazzo per la sovrana. Ma perché non viene in Parlamento a parlare dell'Ucraina? Lui taglia corto. Lo escludo. Mi candidano in tanti posti, ma un lavoro lo trovo da solo. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Eh no, la domanda la faccio davvero, Banzo, perché sono rimasto un po' quasi, non so se si può dire per le ultimissime, esterrefatto, però sicuramente basito. E innanzitutto dalla presenza anche dei cugini di campagna, dopo aver parlato di fenomeni musicali anche trash del passato. Ma poi, ecco, insomma, ti lancio due cose e poi insomma il tuo commento lo attendo con ansia. Innanzitutto sulla presenza di Jill Biden a Rimini con gli Alpini. Ma poi non ho capito una cosa, cosa è successo a Renzi? Non ho capito neanche io, sembra che gli abbiano fregato la password, che dovrebbe essere CNEL. Ma che cos'è CNEL? Non lo so, aspetta, è tipo un istituto di ricerca. Ah, certo, lo CNEL, quello che volevano tagliare con la riforma di Renzi, è vero, è vero. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Certo, ecco, che Renzi lo voleva togliere con la riforma del 2016, che poi bocciata in referendum, è vero. Invece l'ha usato come password, pensa a te. Ma guarda te la vita. che cosa veramente stupefacente. Poi per quanto riguarda Jill Biden, non ho capito, veramente le vie del Signore sono infinite, anche quelle degli alpini, non lo so. Ma anche quella, ma anche quella di Kirill e la regina di Spagna? Non lo so, vedi, mi forse hanno lo stesso stilista, non dovrebbe avere la regina di Spagna lo stesso stilista di un'autorità religiosa, vabbè, poi comunque il patriarca Kirill dice che riesce a trovare lavoro da solo, beh, d'altronde non so, ecco, come se avesse detto che fare il patriarca non è un lavoro. E volevo anche sottolineare, prima di chiudere, Steven, il Salone degli Hacker mi sembra un evento importante, benché vagamente paradossale, perché ecco, sono diciamo una figura professionale che non ha bisogno di troppa pubblicità, quindi non mi aspettavo che gli fosse dedicato un salone. Poi avevi citato i Cugini di Campagna, che sono con le loro adunate i veri contraltari ai nazisti affittati con dei contratti a termine per la parata del 9 maggio in Russia, ecco. Ma insomma, tante cose come sempre, sono tornate le ultimissime del nostro Fausto di Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Noi andiamo subito a bomba con un altro brano, non diciamo di chi è, ce lo ascoltiamo e dopo rientriamo e ve lo spieghiamo un pochino. Eccolo qui. Insomma, voi direte, ma cosa state mandando in onda? E infatti io credo che la domanda non è insomma così sbagliata, Banzo. Anthem of the Soviet Union, ossia l'inno dell'Unione Sovietica di Nicola Manzani, in questa versione particolare contenuta nel suo nuovo disco Nikolai Kulikov. Banzo, insomma, no, non siamo russofili nel senso di filo putiniani, ci mancherebbe, ma mandiamo in onda questo brano per una regione ben precisa. Spiegacela tu. Anzi, spiegala ai nostri ascoltatori. Una regione precisa che è l'Unione Sovietica, esatto. beh, sì, in effetti non è che adesso dobbiamo giustificarci perché stiamo mandando l'inno dell'Unione Sovietica, perché lo stiamo contestualizzando. Proviene da un disco appunto dedicato alla figura di Nikolaj Kulikov, che fu un militare russo che negli anni 70 partecipò a un percorso di addestramento che lo avrebbe portato a partecipare a qualcosa di simile al programma Scudo Spaziale degli Stati Uniti. E quindi io non so esattamente quali siano le ragioni che hanno portato Nicola Manzan, musicista straordinario dietro al progetto Bologna Violenta e anche membro, è stato anche parte dei Ronin, straordinario gruppo di Bruno Dorella. Non so esattamente quale sia stato il filo dell'ispirazione che lo ha condotto fino a qui, ma questo è il suo nuovo disco, uscito per Dischi Bervisti, la sua etichetta, pochi giorni fa, e ci è stato segnalato dal sempre solerte Fausto. Io lo avevo nella mia wishlist bank, ma non ho ancora avuto modo di approfondire, e appunto, adesso che vi abbiamo spiegato che si tratta di un concept album e di chi è il protagonista, si capisce perché vi abbiamo fatto sentire questo arrangiamento così peculiare, secondo me molto bello, dell'inno dell'Unione Sovietica. Eh sì, e allora andiamo a bomba anche con un altro brano dallo stesso disco di Nicola Manzana, che è un altro inno, anche questo della durata brevissima di 1 minuto e 39 secondi, che è l'inno The Anthem of the Soviet Cosmonaut Program. Sentiamocelo e poi rientriamo. Nicola Manzana, Nikolai Kulikov, il suo nuovo album Anthem of the Soviet Cosmonaut Program. Insomma, Banzo, insomma, abbiamo rotto un po' così la puntata con questa cosa un po' fuori luogo, ma in realtà in luogo, molto bella e molto particolare. Beh, è stata una puntata comunque caratterizzata da salti pindarici notevoli, che voli pindarici notevoli. Ma anche salti, dai, basta dire voli, salti. Che giustifica pieno il nome del nostro programma, d'altronde. Assolutamente, lo Zibaldone. E comunque sul disco di Manzan, ecco, abbiamo anche scelto questi due pezzi che tecnicamente sono delle cover, anche se mi risulta strano chiamarli in questo modo, anche perché fra i dei 10 pezzi che compongono l'album, a parte altri due interludi, le altre canzoni sono tutte lunghissime, quindi diciamo che volevamo proprio darvi un assaggio e incuriosirvi, perché effettivamente non avrei pensato neanch'io fino all'altro giorno che avremmo mandato l'inno del programma spaziale sovietico a Zibaldone. E quindi ringraziamo Nicola Manzan per aver aperto questo spazio a possibilità inusuali e ci riserviamo anche di magari mandare un brano autografo dal disco. Assolutamente, assolutamente. Noi nel frattempo siamo arrivati a fine puntata, il tempo stringe ed è tiranno, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana per altre due ore di Zibaldone, qui come sempre dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda, 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world e poi dalla web della radio e poi appunto i podcast dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Ultimo trago, canzone chiude il programma, è il nuovo singolo di Pierpaolo Capovilla insieme ai Cattivi Maestri, il titolo è Follow the Money e questa sì che vi carica dopo la pace spirituale dei due inni sovietici di Nicola Manzan per cominciare questo venerdì sera. Banzo, grazie di essere stato con noi come sempre. Grazie a te Steven, a venerdì prossimo. Assolutamente, quindi come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galvani, il primo sindaco socialista dopo la fine del franchismo, tutti venerdì sera alle 19.56 approssimativamente, diceva... E comunque Toto Cutugno ci aveva indicato un cammino di pace, di speranza per tutta l'Europa e noi, come si vede purtroppo dalla storia presente, non l'abbiamo seguito. Eh sì, Toto Cutugno in concerto per fermare l'ultradestra, io credo che potrebbe essere il messaggio, Banzo, eh? Mi sembra un messaggio un po' azzardato, forse. Si è allargato un po' troppo. Ciao Banzo, venerdì prossimo, buona serata a tutti. Godetevi Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Thinking about Kabbalah. cosa c'è che non va, cosa c'è che non va, cosa c'è che non va. Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu. Cosa c'è che non va? Dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu, dimmelo tu. Che cosa c'è che non va? Finché la barca va, lasciala andare. Un giorno finirà questo mare di lacrime e arriveremo là dove vogliamo andare, dove vogliamo andare, dove vogliamo andare, dove vogliamo andare. Io non lo so e non lo sai neanche tu. Dove vogliamo andare? Io non lo so e non lo sai neanche tu, non lo sai neanche tu. Dimmelo tu, amico mio. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Forse nel cuore dei rapporti umani, oppure no. Forse sono io, forse sono io, forse sono io. E questo maledetto muro dentro che non mi fa vedere, non mi fa pensare, non mi fa cantare, non mi fa sognare. E mi lascia solo. Forse sono io, forse sono io, forse sono io.